Io chiamo da Genova, sto ascoltando su Radio Lanterna, tra l'altro domani mattina sono uno dei collaboratori della radio, devo fare una diretta con loro, non so cosa dirò in radio perché veramente in questo momento sono sconvolto. Questa è la sensazione qua adesso, certamente stiamo vivendo giornate di grande tensione, di grande stress, di scariche di adrenalina, ecco, questo è quello che si vive in questa città spettrale. Per cui, non lo so, in questo momento sono quasi le 3 di notte, io sono molto sconvolto, insomma. Così vi ringrazio per il contributo che ci avete dato. Grazie a te. Siete arrivati a Genova, avrei preferito che ci arrivasse in un momento magari più bello, però vabbè, ci siete arrivati adesso e vabbè, ci risentiremo... Penso presto. Mi sembra proprio che in questi casi, in questo momento, proprio la verità non riesca, cioè sia soltanto la verità di una parte, la verità del potere che è l'unica data, è l'unica fornita, è l'unica plausibile e che proprio abbiamo una difficoltà a far passare tutto ciò che sia una verità vera e reale. C'è proprio una mistificazione del senso di ciò che accade. Che è una cosa che mi rende personalmente proprio impotente, e è una cosa su cui riflettere parecchio, insomma, l'ultima riflessione della notte. Stanno iniziando ad andare via le ultime persone, c'è una situazione di assoluta tranquillità, diciamo che è veramente tutto finito, ci sono a occhio e croce un centinaio di persone, ci sono molti giornalisti, ci sono molti dei ragazzi che questa notte non andranno a dormire e che sono rimasti qui per parlare, per confrontarsi, per cercare di capire anche e rassicurarsi. C'è una situazione di profonda tristezza e di profondo rammarico e piano piano, lentamente, ci sono dei gruppetti che si stanno allontanando, c'è una tranquillità frutto più della stanchezza e dello shock provocato da quanto è successo questa sera, che abbiamo potuto vedere e vivere più che non dalla recuperata tranquillità. La gente è d'accordo, cioè è inutile che si pensi di dire che informiamo la gente è d'accordo, cioè la maggioranza che ha votato Berlusconi ha votato per un dittatore e vuole che quegli sporchi schifosi comunisti vengano pestati. La democrazia non ha bisogno di eroi morti. La democrazia deve riprendere quei valori che sono partiti da gente che la mia età si ricorda, quando in piazza gridavamo al poliziotto sfruttato di formarsi un sindacato. E dobbiamo riprendere quei valori, dobbiamo dire a alcuni compagni che governare a tutti i costi non è giusto, è meglio una forte opposizione piuttosto, in un mondo capitalistico che non ti lascia passare. Riprendiamoci un modo diverso per spingere chi ha perso la volontà di fare opposizione a ritornare nelle piazze. Io spero che entro una settimana si metta in ballo qualche manifestazione importante. Io sono un 14enne e non ho mai vissuto una cosa del genere, sono totalmente sconvolto, mi stringe talmente tanto lo stomaco a vedere situazioni del genere che l'unica cosa che ho da dire è che io sono, ci sarà sicuramente, io spero, una manifestazione contro ciò che è successo e io voglio invitare tutti ad esserci in una manifestazione in qualsiasi parte perché non è accettabile una situazione del genere. Cosa fai adesso sveglio? Come faccio a dormire? Cioè, allucinante. Infatti... A parte che mio fratello e mia sorella erano lì fino a poco tempo fa, quindi ero sveglio per eventuali notizie. Ma li hai sentiti al telefono? Sì, non ti preoccupare, tutto a posto. Sono le 4:01, intanto ricordo che a Bologna è iniziato da 20 minuti un sit-in tra via Ugo Bassi e via Indipendenza. Sei l'ultimo. Non ho una buonissima notizia, perché è una segnalazione di amici che sono appena rientrati a Milano e che sono stati fermati per 2 volte in autostrada dalla polizia, una delle 2 volte una 30 di chilometri fuori Milano con macchina affiancata, pila puntata e accostati a forza, perquisizione della macchina, domande insistenti su dove eravate, in che spezzone eravate, avete visto il Black Block, cosa avete fatto, con chi stavate, eccetera eccetera. Per cui, boh, non lo so, ecco, se c'è ancora gente che sta rientrando, stia molto attenta anche prima a di chiudere. Massimo Rebotti. Ultimissime notizie sui rientri, alcuni sono un po' complicati, ostacolati anche dalla polizia. Un gruppo di ragazzi del centro sociale di Milano, il Cantiere, sono stati fermati e sono fermi in questo momento tra la fiera e il portello. Sono stati fermati dalla polizia, che li sta trattenendo, diciamo così. Questa è un'informazione che vi diamo in chiusura di questa sterminata diretta di Popolare Network e di Radio Popolare. Il notiziario alle 8.30 domani mattina è il primo appuntamento. Ovviamente in redazione ci sarà sempre qualcuno, noi stiamo lavorando sulle notizie per domani mattina, a cominciare dalla irruzione nei locali del Genoa Social Forum, dalle condizioni dei feriti, dalle condizioni degli arrestati. Oh, s'accabò.